ed ora dico sul serio, non vorrei cantare più la canzone da niente che si canticchia distrattamente. Prendo a calci la poesia, prendo a pugni l'armonia e dico soltanto no. Corro fino a che c'è strada, quando passerà la banda la finestra chiuderò. Ed ora dico sul serio, non vorrei cantare più la canzone di ieri, tutta sorriso, scaccia pensieri. Tu che stai ad ascoltare vuoi sapere cosa accade nel giardino a casa mia. Il sempreverde appassito, il primo amore tradito, il non ti scordar di me. Ed ora dico sul serio, non vorrei cantare più, io vorrei rinunciare a fare e rifare la nina nanna. Io vorrei fare silenzio, silenzio tanto fondo il vicino picchierà. Venga il vigile, il dottore, venga il prete col portiere a pregarmi di cantare. Ed ora dico sul serio, non vorrei cantare più, dico sul serio. Ed ora dico sul serio, non vorrei dire di più, dico sul serio.